c'è, ma guarda una cosa che non ci vediamo, c'è una temperatura dello Smith che non mi convince. C'è, se non è fatta, non è la cibo cucina tanto, io vado. Già che faccio chiamata io all'interno, non c'è nessuno, è che già. Comunque, dove vuoi, se vuoi chiedere domani il tempo per mattina, lo sai, se c'è la casa. Se hai gatti, fai una scappatina. C'è il grande Giovannino. Ma no, non in piazza. Bello, io sono un altro piccolino, sono andato a prendere il caffè l'altro giorno. Qui, lì spazzavo le macchie, e così. Ecco tagliavo, mia casa c'era un tagliavo che disperatamente. E niente, è così, c'è stato il fatto, lì io posso lavorare con loro, lo stesso. Vediamo se non piove, vediamo, mi faccio un salto. Cheers. fatta di ostacolo, quella dello scopo di strada lì. Ma che cosa ci sono di dire? Se vi portate dentro la luce, perché ci lanciano più quella curva lì un po' bruttina, capito? Oh, ci sono ancora tre pattuglie qua, dove vanno questi incidenti. Ma allora cos'è noto? Se è questione di precedenza qua del bivio del nuovo Platamo, non lo so, qua sulla 131. Non lo so, c'era un po' di strada, una Peugeot, non lo so, questione di precedenza forse. Sì, sì, guarda che sto arrivando a casa e se ne voglio riprendo da su, no, va da casa. Da. Secondo me, poi giustamente dipende anche dai gusti. come te, che piace ascoltare, fare il secondo PL e lo usa in quella maniera, capito? Sì, quello sì, ma uso ignorantemente, per dire, parlando, no? Che non è, diciamo, come ti posso dire, non è, adesso mi viene la parola, comunque fatto sta che non è bravo in queste materie, non se la potrebbe mai immaginare che una cosa del genere, una cosa da niente, quando la così c'ha, diciamo, queste particolarità, ecco, è una cosa, sinceramente, guarda, la cosa migliore sinceramente che potrebbe trovare, la verità, sicuramente ci saranno di meglio, però per me, guarda, è un lusso anche di più, la verità, l'ho trovato ed è, ti giuro, una meraviglia. Prende poco spazio, c'è la colonnina interna sua, se vuoi la metti esterna, una spolverata ed è perfetto, come piacciono a te le cose sempre perfette, pulite, ordinate, capito? In quello stile lì, alla Claudio. No, no, non mi ricordo quello che diceva, era abbastanza ordinato, io lo conosco di persona, ci sono andato anche a casa sua, ho visto che le cose le operavano molto bene. Peccato perché ha dato un Galaxy Saturn Echo, credo l'anno scorso, nuovo nuovo. Quello mi è dispiaciuto, che potrebbe essere un affare anche per me, perché il Galaxy non ce l'ho come stazione base nella sezione baracchini, e quindi mi sarebbe piaciuto averlo, soprattutto qui. Sono contento di aver fatto l'affare, l'hai provato, tutto a posto. E che antenna gli hai messo? Via, cra! La mia, quella la turbo, cosa dicevo? La mezz'onda, quella che sto usando per cosa sto usando adesso in questo momento. Grazie. E non le puoi mettere anche un'antenna di macchina e riceve, guarda, tutto riceve quella radio. Sì, sì, quella non è collegata. E quella normale che ho messo in casa direttamente. Normale, va più che bene, guarda, è una meraviglia. Ho soltanto di solidità e basta, ma niente di particolare, va benissimo. Altro che. Va bene, sì. La moglie che va bene, ottimo per la truppa. Ascolta, tu che sei più informato, scusami se ti sto rompendo le palle, ma di che anno potrebbe essere? Anni 80, anni 90, è possibile, forse anni 90, vero? Il peso gli appartenga a quella serie degli anni 90, l'ho detto uno di quella serie lì, perché la Kimbo ha fatto questo prototipo radio ricevitore praticamente, capito? Quindi potete ascoltare la radio, FM, eccetera, in più potete anche ascoltare le bande HF. Perfetto, no, ma la verità, guardando qui, io ho guardato su internet tu, quando c'è in biblioteca, controllato, guarda, vedi, sembra un autoradio, nel vero senso della parola, è proprio quasi un autoradio, invece no, c'è all'interno, chissà che diavolo c'ha all'interno, comunque c'ha questa particolare, semplicissimo, guarda, è veramente una meraviglia, no, sono contento, ti ringrazio, è veramente un ultimo consiglio, la verità, no, non potevo trovare di meglio, te lo giuro. Va bene, quindi sono contento. Con Antonello si è andato. A Londra. Vecchio Marpione, Pomponio, che si conoscono molto bene con Tore, quindi non ci sono problemi. Ascolta, te l'ho fatto vedere quel 1300, com'è? In che condizioni è? Non ho capito, il 1300, cos'è? Il lineare che c'ha, non te l'ho fatto vedere? Sì. E che condizioni è? Come piace a te, la verità che si dica. Nuovo, mai da ne vedere. Guardi, giuro, la verità non l'ho chiesto, perché ce ne va tante altre cose, la verità, è in un magazzino, tutto bene imbustato, scatolato, e c'è un po' di roba, la verità, c'è un po' di roba, io l'ho visto, io ne ho visto uno che, anzi, la verità ne ho visto due, una cosa veramente spaventosa, ma in vita mia ne ho visto una cosa del genere. La verità, è veramente mastodontico, c'è un alimentatore con i contropalle, la verità, per alimentarlo, ma in ottime condizioni, la verità. Ascolta, cos'è un 300, cos'è un 750, non te ne sei accorto che lineare? Sì, guarda, io la verità non me ne intendo di queste cose, comunque è grande, molto più grande del BV131, ecco, come grandezza. Solo questo vi posso dire per, diciamo, per la poca esperienza che ho io, la verità. Il doppio più grande del BV131, vedi un po' tu, immaginati un po' la grandezza, sicuramente un po' tu dove sei un pochettino più informato di me. Capito, quindi ci vado a trovare a vedere cosa c'ha, l'ho già rotto, vediamo cosa c'è, se c'è roba che mi interessa, vediamo un pochino, giusto per capire. E comunque l'hai trovato, va, che si ci ha messo il movimento con quello civitore. È una bella storia, nel tempo volevo entrare per ringraziarti, la verità, tutto lì, dirti grazie per il consiglio che mi hai dato, ti ho chiesto un consiglio e tu, anche se ti ho rotto un po' le palle per un po' di tempo, ma sinceramente non sapevo a chi rivolgermi, comunque ho chiesto a te, ti volevo ringraziare per quello, perché ho preso, secondo me, la cosa migliore che si poteva trovare per le mie possibilità, è la verità, e per me è un lusso, anche di più. Va benissimo, va troppo bene. No, non trasmette, riceve, sono perfettamente in regola, di più ne vuoi. Sì, ma poi quello, ti ripeto, la clima ha fatto questo prototipo che è andato molto bene, è andato molto molto bene, è stato venduto tantissimo, vedete, è un ricevitore ottimo, non ingombrante, è un veicolare, fa la sua bella figura. Va molto bene, poi riceve, ti ripeto, una recezione formidabile, perché in quegli anni chi ce l'aveva, caspita, aveva delle grandi possibilità di recezione rispetto a tantissimi altri che poi ne hanno fatto, che alla fin fine non è che sono risultati così come quello. Ottimo, ottimo, sono contento. Va bene, ripeto, ti ringrazio, va troppo di lusso. Adesso più tardi mi assillo, tanto oggi è venerdì, dunque c'ho tutto il tempo per provarlo, imparare un pochettino come parte, poi alla fine è già abbastanza semplice, quando prendo un pochettino la mano riesci un pochettino a aggiustare un po' la situazione, vedi un po' come giostrarlo, già abbastanza semplice, già l'assillo già ti porta a mettere le mani addosso, la verità, e questo è sempre colpa tua, attenzione. Sì, più piano piano ho scoperto tutte le cose, e comunque una volta che giri e fai già ti accorgi delle varie frequenze, delle varie cose, capito? Ma già che è una bella esperienza, la verità, non l'avevo mai provato, è una cosa nuova, già fa piacere, io ho fatto, sono contento così, da oggi in poi, basta, va bene così, già ce n'è da divertirti, la verità, non ti vuoi rilassare, come fai tu, ti siedi e ascolti, o fai una chiacchierata, va più che bene, altro che mi devi guardare lì a guardare il televisore, la verità, questo è il mio modo di vedere, comunque, ognuno ha le sue passioni, anche questa non è male, maledizione, già una bella storia, ripeto, sempre colpa tua, Io ormai coinvolgo un po' tutti, quando mi chiedete, sono abbastanza disponibile, non ho la possibilità, se ho un'idea la metto a disposizione di tutti, quindi non c'è problema, no, se c'è Gianni lo più lungo, Gianni ci sei. Ah, da solo vedo, non c'era nessuno ancora? No, stavo controllando la radio di Massimiliano Bondozzo, che ce l'ho fermata l'attura su uno strumento che c'è, un Lewis, che lo dà per la calibrazione, una volta che fa la calibrazione per le stazionarie, non è giusta, però non si può calibrare perché è chiuso lo Smith, non c'è nessun trimerino di regolazione, no, che non si va. La radio, ma io lì le mani non ce la metto perché non ho strumenti, quindi niente, l'ho richiuso, l'ho messo a parte e domani viene solo ritiro perché non posso fare niente. Ma tu, diciamo, questi ultimi giorni stai usando un Galaxy lo stesso? Sì, sto usando anche stasera il Galaxy, adesso ho commutato con questa che è un po' più silenziosa e quindi sto usando questa qua. Tutta la sera chiuso il baracchino. E vabbè, comunque io che ti ho sentito già stai facendo bene, non prepotentemente, però la modulazione è la bella, la verità, bella tranquilla. Comunque è tuo quello direttamente, no? Pure lo stavi riparando. No, no, quello l'ho comprato assieme ad altra roba di un CB che è morto nel 97. E il cognato appunto aveva tutta questa attrezzatura, mi ha proposto se la compravo, l'ho comprata, hai capito? Ho fatto un affare, diciamo, l'imbracchino, l'amplificatore, tutta la stazione completa. Già va benissimo, già anche quello è una bella collezione. No, il Galaxy già è bello. È un po' ingombrante, da, però tra virgolette già fa la sua bella, la sua corta figura, la verità. Prende un po' di spazio, però già ti riempie un po' di spazi vuoti, è la verità. Una bella ricezione, non per gli sblatteri, no, come in Blink, come il Midland, la verità. Già è fatto bene, sempre un baracchino, per carità, però. Non prendi il blatto, il buono di quelle apparati sono quelli, poi le belle sono belle anche esteticamente, poi giustamente è sempre questione di gusti, però di fare collezione già un bel pezzo da mettere in esposizione, non è da buttare secondo me. No, no, no, l'ho anche usato, lo uso spesso, un bel baracchino che funziona alla grande, non ci sono problemi. No, ma il mio non è base, è veicolare, è un Galaxy Uranus. È un semidigitale con una bella copertura da 24 a 30, va molto bene. E ho provato tutti i microfoni e funzionano perfettamente, quindi lo usiamo, diciamo, dai, lo usiamo come baracchino, lo mettiamo in mezzo, ogni tanto facciamo due chiacchiere anche con quello. Quello sì, ma tieni presente che tanto alla fine, guarda, con questi baracchini chiusi, uno rimane più prepotente, l'altro rimane più timido con modulazione, tranquilla, alla fine non è che cambia alla fine più di tanto, non ho fatto molta differenza. Chi è un pochettino più potente, chi è meno, però alla fine la modulazione rimane sempre la stessa, non è che mai ti ha cambiato mai modulazione, per il mio modo di sentire. No, perché i microfoni li faccio girare con tutte le radio, capito? Sono sempre gli stessi i microfoni. Sono sempre gli stessi, più 2, più 3, Saletta, MC100, MT100, tutti i microfoni che vanno bene per tutti i baracchini, capito un po'. Ehi, quello sì, ma sai a volte, sai cos'è? Un esempio, io posso provare io, a volte cambia la modulazione, per dire. Cosa ne so, adesso penso usando il 68, se metto il metro di 44 cambia tantissimo. Stranamente non lo so perché a te non è che ci sia tutta questa differenza, Può attenuare un po' la modulazione, può attenuare, ma leggermente. Poi alla fine dei conti rimane sempre la stessa, non lo so il perché. A me invece, confronto agli altri, cambia. E quello che sempre mi rimane sempre il punto di domanda, non capisco la verità, cosa fai o come fai. Me l'ho sempre chiesto, poi è sempre un mistero. La mia modulazione è quella che spinge sempre la lezione, siamo sempre lì. Qualsiasi microfono messo su qualsiasi tipo di baracchino, quello che risponde bene. E vabbè, ma deve anche tenere presente che ogni baracchino c'è la sua personalità, componenti diversi, lavorazioni diverse, tutto quello che vuoi, però rimane sempre la stessa, è quello che non capisco. Comunque avrai il tuo segreto che sicuramente non avrai mai detto, comunque giustamente te lo tieni per te, comunque toccherà scoprirlo, no? Se la colpa è sempre tua. Scoprire i miei segreti ormai lo sanno tutti. Un buon impianto, diciamo, fatto a loro lavate, con tutte le masse, tutte le cose, quindi anche lì le radio non fischiano, non fanno, e semplicemente quello che dico sempre a tutti, fare un buon impianto, soprattutto di massa, che l'antenna non abbia stazionarie, che le radio siano compatibili con i microfoni, perché quando uno usa un amplificatore deve dare i watt giusti, perché è inutile se un amplificatore riceve 10 watt e tu ne hai 20, è chiaro che non c'è tutto, oppure dove se non lo bruci la modulazione è distorta, non c'è quell'accoppiamento giusto, capito? E quello più ovviamente d'accordo, ma diciamo tutti questi accorgimenti che tu hai dato, per dire, io non, sinceramente da parte mia non li ho mai dati, ho messo l'antenna, la piattaforma come c'era scritto nelle istruzioni, no? Perché l'antenna che ho piazzato io, c'erano dei punti di riferimento quando dovevi allungare gli steli dell'antenna, senza radiale, quella che ho io. Ho fatto multipli di 11, 22 metri di cavo, boh, piazzato il baracchino, basta, non ho fatto nient'altro, massa a terra, come che, come, scusami, come che ha fatto, come che ha fatto tu, io non ne ho mai messo, li messo a terra, eppure, la verità, sempre, fancuffia, uno e uno mi sta tenendo, ma non di più, anzi, adesso diciamo uno, neanche si muove l'indicatore, se metto lineare, 1,1, ma esagerando 1,2, ma diciamo questi accorgimenti tu millimetrici che tu hai fatto, io non mi è mai passato in mente di farli, ho lasciato così com'è, la verità non mi ha dato mai problemi, ecco. Se non ti ha problemi, va bene, ma hai visto ultimamente ti aveva problemi stazionari, io ho fatto quegli accorgimenti di copertura di grasso, e stazionario non te ne ha dato più. Quello sì, perché purtroppo, sarebbe anche che mi passasse la tosse, comunque è perché dava, diciamo, quando pioveva o c'era umidità durante la notte, diciamo, mi bagnava il PL, ecco, alla fine, il problema è solo quello, poi, giustamente, per il consiglio che mi ha dato, ho fatto come hai detto tu, e dal giorno, boh, tranquilla e pacifica, non sono potuto salire sul tetto, a segnarmi ogni volta, scendere e controllare, vedere un po' la situazione, un po' di grasso e il problema è risolto, anche quello già si impara giustamente, alla fine quando qualcuno avrà qualche difficoltà, giustamente uno ha avuto esperienza e si continua a dare consigli, giustamente mi sembra anche la cosa giusta. Beh, certo che sì. Certo che sì, anche perché poi un ghiaccio isola, quindi fa sì che non entri umidità e non ti crea quel rientro di RF causandoti poi stazionari e fischi e quant'altro. Beh, così, anche quella è fatta, ma già va bene. Comunque così ti sento un pochettino triste, come mai? Ho la mia impressione. No, non stanco sotto. Ho volato da piani oggi, da piani. Non è anche riposato troppo caldo, infatti adesso fra un po' vado in Israele. Ho fatto dalle 7 alle 2 e poi alle 3 e mezza sono veramente uscito. Sono rientrato che erano le 5 e mezza, sì, una cosa del genere. E sono tutta la sera qua. Sono tutta la sera qua. E quindi sono un po' stanchino. Ieri la stessa cosa, infatti a quest'ora ho abbassato la testa qua in radio e mi sono dormito. Mi chiamavano ma non rispondevo, poi quando mi sono svegliato ho chiesto scusa e ho chiuso e mi sono andato a letto. Domani già sei a riposo, devi andare a lavorare domani mattina, devi essere reperibile. Ma domani c'è un turno, domenica c'è la reperibilità. Domani non è... hai due ragioni tu a fancuffia, devo che era sabato oggi, è vero. Dunque anche domani ti tocca un'altra giornata di lavoro, dai, alla fine. Quindi giornata di lavoro sicuramente anche di acqua, perché ha dato più, così sembra. Sì, ma alla fine, guarda, tutto questo allarmismo che c'era, questo vento, non so cosa doveva fare poi, sinceramente, quanto avrà tirato, a 20 km orari, neanche. Fortunatamente qua non aveva fatto danno, poi bisogna vedere in altre parti, ma diciamo c'era questa allarme, poi alla fine è andato tutto bene, un po' di pioggia, ma diciamo niente di particolare. Un po' di pioggia, niente di particolare, quello sì. Ma non è finito l'allarme, perché si parlava della tarda nottata di venerdì, quindi sono le 10:10, perciò ancora dobbiamo stare all'erta. Perciò ti lascio pure che il vento metti stanotte, niente in particolare, può darsi che sia così. Ma speriamo di no, dai, alla fine, anche per evitare ulteriori danni. Io avevo visto la verità ieri sera, passa passa, su canale 5, che aveva messo per venerdì, non piogge, attenzione, io così avevo visto, non piogge ma vento, invece poi alla fine non ha tirato vento ma ha fatto un po' di pioggia, ma speriamo che non cambi e faccia danno veramente la verità, speriamo di no, che rimanga tranquillo come oggi. Speriamo, speriamo che sia così, altrimenti sarebbe un disastro. Sperando per chi ha antenne da centinati, da migliori in su di antenne, che sono un pochettino a costo, se si rompono quella già viene un pochettino il malgogno, è la verità, sia per l'antenne giustamente e per qualsiasi altra cosa. Ecco sul 27.075. Mia zio mi. Ciao, perché avanti, buonasera, canale 10. Buonasera sul canale 10. Buonasera a tutta la ruota sul canale 10. Buonasera. Ma buonasera a tutti e tre, anzi 1, 2, 3, 4. Buonasera, che te Antonio. Aldo, chi era? Antonello. Figlio di Rodio, buonasera e ben sentito. Sono compagnia mia, di zio Falchetto e di zio Claudio. Tutti zii, là, giustamente, per rispetto, lo zio all'epoca si usava così. Ma sono in macchina, al Monte Alto, cambio. E che sei combinente? Cosa combinente? Si nota che quell'antenna di casa l'ho presa e buttata via, boh, non ci vuole altro. Sei allegria, chissà cosa avrei combinato, comunque, lei sicuramente già... Con un po' di pazienza, un po' di consigli e già si risolve anche quello. Avanti, cra. Via via. Niente, ne conoscono vecchi e via nuovo e basta. Tutto è stato a toppare, a fare e pensare che possono andare bene. Vanno bene per un po' e poi si vogliono impatti. Quindi quella, secondo me, la cosa da fare è prenderla, buttarla via. Non mettere un'altra. Buonasera anche a te, avanti Falche. Positivo, in effetti, quando la cosa non va bisogna buttarla via. E allora, questo tempo arriva, di attraverso non arriva. Come diceva Antonello, l'emergenza non è ancora finita, ci sono ancora 24 ore, quindi speriamo che non carichi stanotte, ma comunque il tempo è brutto fino a domani, perciò stiamo a vedere, stiamo a aspettare, aspettiamo, va bene. E quindi cosa hai deciso Giuseppe? Aprire la fattezza. Sì, claro, io dovevo fare, altro non posso fare. Non lo so, dammi un consiglio tu, Cracco, cosa devo fare? Te la porto da te e la fai rinascere. Intanto dille a Antonello di smontarla e poi si vede cosa c'è. Solo smontandola bisogna vedere che cosa c'è l'antenna, se si è staccato di nuovo il filo, se si è staccata la spirale, che cosa le ha preso, perché se sta riuscendo bene poi di colpo si è interrotta, qualcosa è successo, quindi se si può mettere a posto si mette a posto, problemi non ce ne sono, capito? Problemi non ce ne sono da parte mia, se l'antenna si può mettere a posto si mette a posto. È un casino, proprio è un casino. Avanti, Falchetto. Ehi, chi è che bussa? Ero io di Agaiest, riprende tanto o no? Ehi, no, niente, io non ripeto, tocca a te zio Falchetto, un po' senza sentire, dunque il microfono è tutto tuo. Ah, che bello. Ehi, tutto bene, sì, guarderà tutto. Diciamo che toccandoci i maroni o le castagne già, mi sto tirando le maniche, sto cercando di fermare un po' la situazione, la verità. Il discorso è tutto lì. Comunque, spero per tutti quanti che si trovano in difficoltà di trovare il meglio, diciamo che nel peggio siamo una via di mezzo, dai, non mi arrendo questa miseria, già piano piano la ruota sta girando, per forza devi girare. Ok, va bene. Sì, speriamo che si smocchi, un lavoro alla grande. Va bene, Giuseppe, inclini la... Papà, sì, va bene. Speriamo che, come ha detto Antonello, che la ruota giri e che giri anche per noi, almeno che avremo un po' di fortuna. E tutti quanti i colleghi delle Radio GP avere tanta fortuna e dire altro che cosa. Aspettiamo bene che il mondo giri a 90 gradi. Ci auguriamo così. Del resto, vabbè, te l'ho già chiesto, tutto a posto, vedi come si va. Tu non hai lavorato, tu sì, lavorichiamo. E lavoricchiando, la verità sì, lavoricchiando, dai, qualche cosettina già si sta muovendo, da una parte all'altra già si sta muovendo, la verità. È meglio così, dai, sono contento. No, stavo sentendo, dice, c'è stata una grossa scossa di terremoto lì a Palermo, non so se sia vero o bugia. No, ti giuro che la prima cosa che sento, io sono un po', se la verità, senza guardare il televisore, perché ormai mi sono messo da parte, perché la verità, questo non lo devi vedere, non vedo quando guardo il telegiornale, non ci sono altro che, scusami, fancuffia, non sono altro che disastri e catastrofi e paranoie più totali, mi sono messo da parte, la verità. La prima cosa che sento, te lo giuro. No, io ho sentito nel tuo pomeriggio, sì, stavo dicendo, ma comunque, se è verità, domani uscirà sul giornale. Tutto qua, né più né meno. Dammi un rapporto di segnale in radio, Antonio. E volentieri, sempre 9 più 10 è una bella radio di 5, sempre la radio di zio Falchetto. Guarda che ce lo controllo il segnale della radio, sono tra leggerezza se c'era qualcosa che non andava. Se non ti dico niente vuol dire che è tutto K. È positivo anche dalla tua parte, tutto K. Va bene, no, una buona stazione, anche la tua non scherza. Va più che bene, Antonio. Vabbè, quando capita l'occasione, vabbè, già ti faccio sapere una cosa, là non c'è problema. Avanti, Gioncino. Cappa, quello che va bene va bene, quello che va male va male, così è il proverbio. Tutti noi siamo nati maschi, c'era stata la donna, era stata la più, diciamo, infrequente, vabbè, non siamo nell'aria protetto, era stata, hai capito? Avete capito, no? Ecco, dalla stazione Bullone. Avanti. No, che un bugiardo, che non è stato nel Bullone, intanto ne prendi una. Avanti, Porto Torres. Cappa, buonasera, canale 10, frequenza 27.075, qui è la stazione Bullone, che modula dal nord Sardegna. Eia, buonasera Bullone, con la primiera è ben sentito, non so perché state sempre dicendo 27.65, canale 10. No, non bisogna dirlo, Antonio, non dirigi perché ci sono troppe cose che non vanno. La gente pensa che si stia modulando pure frequenza, è sempre meglio dire sia canale 10 e sia la frequenza soprattutto, perché è così, poi ti spiegherò. E quando mai? Io ce la... No, vabbè, lasciamo perdere, ma cacchiato la cazzata ancora. Scusa, c'ho il... Migrante Santo Pes, dice canale 10, io giustamente il frequentimetro non ce l'ho, ignorante in materia non lo sa, siamo in 27, c'è poco da fare, una M, e quando mai c'è bisogno di dire anche la frequenza? E da quando è uscita questa nuova V? Lasciamo perdere, va? In uscita c'è purtroppo qualche cretino che si crede che noi della 27 andiamo sulle frequenze delle varie amatori a rompere le scatole, questo non va bene. Allora ogni volta che si entra si sono bisogno della frequenza del canale che si sta modulando. Tutto lì, per far capire a queste persone che noi stiamo modulando sulla 27 e non sulla radio amatoriale. Tutto lì il discorso. Tutto qua. Buonasera, signor Sandro da Porto Torres, nella 27.075, canale 10. Avanti, Sandro, per Sassari. Ok, grazie del collegamento, nonché Falchetto, da Sassari sul canale 10, nonché 27.075. Confermo che si sta sbagliando con il nominativo, ma è bensì qui che trasmette dal Nord Sardegna la stazione Bullone. Volevo informare il caro amico e collega della frequenza, modulante lì da Ussi, se lui non ha un apparato con lo frequenzimetro, può benissimo scaricare dal computer tutte le bande della 27 MHz, giusto per averle a portata di mano. Ti ringrazio Sandro, ma porca miseria, scusando la mia veranza, se c'è qualcuno che rompe le palle, poco la romperà, scusa se te lo dico, capita, come fai ad andare nelle altre frequenze radio amatoriale quando sei nella 27 MHz? Come fa uno? Me lo spieghi? Quando non c'è un apparato omologato? Qual è il problema? Adesso cos'è questa stupidaggio? Dio mio, intanto ne c'è una, tanto sta per fare lì a rompere il scatto alle persone. Come fai tu a modulare un'altra frequenza quando sei nella 27? Penso che una cosa sia matematica, scusando la mia ignoranza. Dio mio. Allora riprende la stazione Bullone dal Nord Sardegna, informando lì il collega e amico dal modulante da Ossilandia, nonché Ossi, non sei aggiornato sulle modalità di trasmissione anche sulla 27, quindi logicamente non sei abbastanza informato, volendo ti potresti informare da persone più competenti dove ti potrebbero illustrare tutto ciò, quindi non prenderlo per una buffa, ma è tutto veritiero. Buonasera KP2, ma sinceramente sto andando dalle nuvole e scusando la parola per tutti e facciamo intanto un giramento di palle, anche scusando la parola ma lo devo dire, ma Dio mio, non si può neanche respirare. Siccome sono disinformato, non è che sempre mi sto attaccando, perché giustamente ci sono anche, diciamo, i doveri familiari, ma cercate di illustrarmi un po' della situazione, perché sto calando dalle nuvole, adesso cos'è quest'altra, scusatemi se lo dico, stronzata. Capa, non è tanto, potrebbe essere una stronzata, ma purtroppo non è una stronzata. Se tu vai a informarti da una persona che è più informata, ti dirà che non è una bufala. Ecco, scusami un attimo, Dio Bullone, ma mola della favola, adesso come mi devo comportare ogni volta che entro a passare una serata con delle chiacchiere tranquille, cosa devo fare? Arrivato a un certo punto. Ma ogni sera ve ne è una e no, che... Bisogna dire la frequenza al canale che stiamo trovando, tutto quanto, non è una bufala, è la verità. Buonasera, anche Gianni KP2 da Muros, 10, frequenza 27.75. Sì, grazie Falchetto, buonasera, qui saluto anche l'amico Bullone da Porto Torres, l'amico Barracuda, saluto anche Claudio, comunque qui stagione K2 operatore Gianni, frequenza 27.075 e canale 10 della banda cittadina. Andate ancora Barracuda K2, ci rimetto il cambio, vai. Ringrazio, adesso mi metto da Pagliaccio e dunque buonasera a tutti quanti, a quanto pare operatore Barracuda, modulazione Ossi, dovrebbe essere qua, canale 10, Midra alla 68S modificato, ma non modificato, Midra alla 68S con microfono originale 27.075, buonasera a tutti quanti, tanto se bisogna funzionare, bisogna parlare così, parliamo così, andiamo bene. Comunque a me anche queste domande non mi piacciono, comunque meglio cambiare discorso, mi sto già incazzando. Lascia perdere, va, lasciamo perdere, comunque io parlo come mangio, Dio mio caro, non siamo neanche radio amatori, no, che devo stare lì ad assillarsi a dire virgola per virgola, si è usato sempre così da 30 anni a questa parte, adesso qualcuno deve rompere le scatole, comunque, quando uno ha la concessione pagata, cade il suo problema, ma adesso alla fine non può parlare neanche in sardo. È così, dottore, c'è gente che si prende con i loro apparati e si porta in quella frequenza lì, e se noi non diciamo la frequenza, il canale dove stiamo modulando, che si riferisce alla banda cittadina, pensa che siamo dei pirati, capito? Ma come fai? Allora, come fanno a dire questa cosa quando l'apparato è costruito con la 27? Come fa ad andare in altre bande, porca miseria? Se siamo in AM canale 10, come fai? Mi spieghi? Non capisco questo raggio di prezzo. Scusa la mia ignoranza perché non sono esperto in materia, ma Dio mio caro. Non hai capito che uno con un ricevitore prende l'apparato HS o HS e si porta, diciamo, dentro con l'apparato, si porta e l'apparato come con le frequenze, hai capito adesso? Un attimo, Antonello. Dimmi tutto, scusatemi, ma non riesco a connettere la situazione. Mi chiedo scusa, ma non lo so. Allora, Antonello, tu logicamente sei colto, diciamo, a sprovvista, ok? E di questo bisogna prendere atto. Ti dico soltanto, dimmi se capisci la parola traslato. Scusami, no, non lo so. Ecco, prova a cercare sul vocabolario ad informarti cosa vuol dire essere traslato. Guarda, adesso prendo il vocabolario e cerco questa parola, se in questo vocabolario che ho io la parola c'è, te lo sto leggendo direttamente in diretta. Adesso lo cerco, traslato. Adesso prendo il vocabolario, continuate, va. Capito, non c'è un ricevitore, il 27 con un altro marchingegno porta quello che c'è dal ricevitore su un trasmettitore di quelle frequenze ed è come se stai parlando lì, ecco, c'è nel narrare. Ma scusami un attimo, se questi animali fanno questi giochetti da stupidi, il problema loro non è il mio, io sto trasmettendo in questa frequenza, c'è poco da friggere, qual è il problema? Non capisco qual è il problema. Il problema è se uno non ha un'ultima stazione che riesce, diciamo, a miscelare bene tutta la storia, noi stiamo trasmettendo o in HF o in UHF, tranquillo e pacifico. E allora, morale della favola, scusando la mia ignoranza, uno viene in casa, ecco, questo è il mio apparato, come faccio ad andare in altre frequenze quando ho solo questo? Quando ho un Zenica Z30 che è omologato, un Ala 44 del 93 un ala 68 omologato, e beh, vado come fai, guarda, io lo controllo e mi dice ha ragione. Uno dice, non è possibile, allora c'è qualche altra magagna. Infatti alla fine uno controlla, ha fatto una prestazione, problemi non ce ne sono, il problema è risolto. Porca miseria, scusandomi, ma ci sono sempre questi rompimale che stanno lì, a che cosa? A fare passare la voglia di modulare e finire il divertimento, non ci sto, io continuo a fare normale, buonasera sul canale 10 e nostro via lì 27.075, ma chi se ne frega? Io sì, ognuno la pensa come amerà, meno di cosa niente ha dito, come non lo so, se ho visto che a chi di altri lo stanno dicendo, poi chi uno so, se ne rende o se ne dà la città, questa da come se chiede, qualche riprendi. Registrato il break, avanti il break. Farò vedere dei sentiti da questa parte di Giovanni che è sotto. Saluto tutti gli amici della ruota. Sagro Porto Torre. Ciao, buonasera Corre, dimmi. Gentilmente, scusando, puoi fare una concorsa greca a due canali su? Ok, vai. E chiedo scusa agli amici, riprendi qualche? Positivo e caparoso. Ebbene, in effetti, Antonio, costa poco dirlo, basta, ma giusto per informare alle persone che vogliono fare le persone disoneste, diciamo, ecco, mettiamole. Sanno già che le persone disoneste, noi siamo onesti, perché diciamo la frequenza, diciamo il canale e basta, e siamo onesti. È riferito per quelle persone che sono disonesti, capito di Antonio? Scusa un attimo il break, io Falche, sono pienamente d'accordo, ma qui si sta arrivando a un punto in cui tu non puoi neanche scorreggiare, che penso che sia un diritto di tutti, perché è una cosa umana, scorreggiare, e sarà te da scorreggiare perché gli altri ti possono chissà che cosa fare, ma ce ne rendiamo conto in quale punto stiamo arrivando, e quella è una cosa assurda. E quella è la cosa assurda, arrivato a un certo punto. Poi lì a punzecchiare per che cosa? Per fare del male agli altri che non stanno facendo niente. Io sinceramente, da parte mia, non le rompo le palle, perché non le rompo, e non mi voglio far sottomettere da nessuno. Questo è il mio modo di pensare. Tutto lì, ognuno è libero di fare quello che vuole. E ti dialo. Cazzo che non si può neanche parlare tranquilli, che stanno lì a rompere le scatole, e di stare lì a minimizzare ogni minima parola. E che mondo stiamo vivendo? Io la concessione ce l'ho pagata, sì, la pagata dell'apparato ce l'ho omologato, sì, tranquillamente, dunque che problemi ci sono? E continua a mutuare tranquillamente, senza nessun problema, in via, in ossi, non ho mai disturbato a nessuno, dunque posso tranquillamente la sera coricarmi tranquillo e svegliarmi la mattina senza nessun problema, che nessuno mi suona la porta e che mi dica qualcosa. Questo è il mio modo di vedere e di pensare, poi ognuno la vede come vuole. E che cavolo, tutto io te lo appoggio tutto, perché tu hai pienamente ragione, però si sta facendo per far capire a questo imbecille o questi imbecilli che stanno rompendo le scatole, ne hai capito? Tutto lì il discorso non è che noi possiamo parlare liberamente come ci pare e ci piace, capito? È per fare capire a questi imbecilli che non possono prendere la modulazione della 27 e mandarla, capito, hai, come ti ha detto Capri 2, tutto qua. Registrato il break, avanti il break. Buonasera a tutti, a te lo concetto e a tutta la ruota, Antonio Pombo da questa parte. Ma non sai che c'ha ragione. Claudio, mi avete sentito? Sto che intendendo, c'ha ragione, sto che intendendo, no? Che... Scusami, buonasera Bombolo. Anch'io sono rimasto un pochettino con un punto di domanda, poi l'ho messo da parte perché oggi non sono dell'umore giusto, dunque sinceramente non mi interessa, io sono tranquillo, poi. Ma adesso le parole propere, tu può fare quello che il capo vuole, mi stava ascoltando. Io so che no, Cioè, il baracchino, ma non è la mia frequenza, da questo può fare un po' pensamento efficace per quanto mi riguarda. Non me ne frega proprio un detta a detta, hai capito? Per non dire la parolaccia. Oh, un attimo. Ok. Ciao popolo, ben ascoltato. Caro Antonello, Ossilandia, io capisco il tuo stato d'umore perché è un qualcosa che dà fastidio, e lo ammetto, perché dà fastidio. Il tuo discorso lo fa una grinza perché, diciamo, hai pienamente ragione. Soltanto è giusto far dimostrare, dimostrare che tu mi dirai, ma io non devo dimostrare niente, ok? Ma è dimostrare certi elementi e certe persone che diciamo che uno quando modula nelle proprie sue responsabilità che abbia l'apparato omologato, che non abbia un apparato omologato, che cosa sono cavoli suoi, ma almeno la 27, che è una banda cittadina che è nata da quando è nata, ok? Dobbiamo far capire che ancora la 27 esiste e ancora esisterà e viene trattata, diciamo, in modo diciamo naturale, in modo naturale, capito? Giusto il discorso che hai fatto te, perché tu sei padrone e responsabile di quello ciò che stai usando, logicamente. Sono d'accordo, ma il discorso sai cos'è? Che ci facciamo un pochino minimizzare, no? Da questo simpaticone o simpaticone che sia, no? Uno rompe le palle a questi 20-30 superstiti che siamo, che ti fanno mettere le paranoie, ma per carità, ho 38 anni, sì, ho 38 anni, perfetto, e non mi faccio schiacciare da questo simpaticone che te via rompe le scatole, problemi non ce ne sono. Via Flumendosa, numero 25, Ossi, uno vengono e mi guarda anche il buco del sedere, arrivato a un certo punto, e problemi non ce ne sono, così mi passa tutta la fantasia. Ma non si fa un sacco amaro, se no se ne fai sacco amaro, appunto sì. Sta che bene, mi strappava il culo. Comunque, non è della favola, dai, parliamo di altre cose che forse è meglio, così non gli diamo la soddisfazione che in ascolto che fa lì a punzecchiare per provocare un pochettino la situazione. Avanti, chi c'era? Dio Falchè. Noi facciamo capire a chi vuole fare lo stupido o l'ignorante, no? O il furbo si vede fa. Gli stiamo dimostrando che così facendo noi siamo regola 100%, tutto lì il discorso, non è che uno se ne parla sacco male perché uno poi è libero di dire le sue cavolate, le sue cose. E devo dire come è giusto per precisare che noi siamo sulla 27 e non sulla territoriale, capito? Tutto lì. Riprendi il K2 e fai girare. Sì, sono contento, stasera ti ascolto a voi, usando i suoi noi ti compio anche a popolo. In questo dice il canale anche a popolo, non so a tu, se mi stai ascoltando con la buonasera, K2 ti rimetti in cambio, vai popolo. Buonasera K2, a me intendi le cutie a calizzattari? Se si sono copiato su un Innoiti CB294, anche stasera l'ho detto, riceve Cyber Vigilance, qui ti ascolto, hai visto? E ascolto gli altri con un segnale notevole. La ISC è un 23 canali, me l'ho piazzato ieri sera, ma come lo farà tu da già lo conosce. E niente, con il Vigilance ti ascolto, qui c'è anche un po' come quel baracchino, e magari quello là, non lo so, perché io l'avevo comprato la stessa, lo prendi peraltro. Però come uscita esce, però in recensione questo mi sembra meglio, perché ti ascolto, se no ancora a forma però riesco a copiarti, mi prendi comunque barracuda K2, ti rimette il cambio, sempre frequenza 27.075 del canale 10 della banda cittadina, avanti Antonello, vai. Ehi a K2, io ho parlato abbastanza, dai, sicuramente ci sono altre persone che sono rimaste in bianco, fa girare. Aspetta, c'era Giuseppe, mi avevo dimenticato, con Pomponi in macchina, madonna, il sistema. inizierai. C'è anche Claudio che ti corregge e poi busserà lui quando vuole entrare. Giuseppe, ci sei? Ah, sì, ci sono. Buonasera Gianni, KB2, canale 10, 27075, la stazione BM Leoncino, che vi super saluta con a tutti quanti, con la buonasera. Se Giuseppe, riprendo io sempre, capito, mi sempre quello, perché forse sei da prima di entrare io, se Antonio Pombo, che sono da Porto Torres, che Franchetto, Barracuda, Claudio Inquerrici, sì, e niente, lasciamo un pochettino di fianco appena appena, se vuole entrare qualcuno, e poi se non entra nessuno, rimettiamo il cambio a Sandro in Porto Torres, un attimino appena appena di fianco. Non puoi aumentare un po' KB2, che c'è un questo capo di QRM, se riesco un pochettino a sentirti un po' così. Ui. Vabbè, come è successo, ma tanto. Via, se ne sto sentendo delle belle. Ma cioè, il problema qual è? Quello di essere traslati sulle alte frequenze. Ma perché chi ascolta, se c'è un eventuale controllo, non si rende conto che è frutto di una traslazione quello che sta ascoltando? Basta vedere l'ago dello smitter, no? Va a fare come se io dovessi mettere una registrazione delle comunicazioni. Non cadendo l'ago dello smitter si evince che non state comunicando su quella frequenza lì. Capisce, basta. Se uno accende solo il paracchino, non intendi che se mi chiede, non è il caso che bevo assai, non ha comprensivo che qualcuno sta facendo il cretino. Prescinde, ma poi credo si sia già stancato, no? Lo fa una volta, lo fa due volte, come è sempre successo, dopodiché la smette. Ma quello di cambiare linguaggio non consono alla CB mi sembra una cosa ridicola, soprattutto perché non è neanche piacevole da sentire, comunque. Perfettamente ha ragione, ognuno deve fare quello che stiamo sempre facendo e basta. Magari si potrebbe anche ricordare che intanto la frequenza non guasterebbe, però tutti quanti i battaggini e cose strane, aspettiamola, dai. E credo che ci sia, c'è povertà di argomenti, quindi ci si inventa qualche problema e si cerca di snocciolarlo. Ma davvero non riesco a capire il problema quale sia. Cioè quello che domani vengono a casa e ti bussa la porta alla polizia postale. Ma perché i controlli non li sanno fare? Ma non sanno loro cosa devono fare, non si preoccupare. Piuttosto deve stare attento che sta facendo questo giochino, perché nelle alte frequenze è facile essere scoperto. Ma già lo sanno loro cosa devono fare, appena intendono una cosa del genere da voi. Non è così, no, vanno a controllare, dici dai no, che non può essere, dai no, che già non sono stupidi, no, quelli là. Ma non è quello, non voglio monopolizzare la cosa, dopodiché rilancio a Sandro di Porto Torres. C'è una cosa che si chiama radiogoniometro, che funziona molto bene sulle alte frequenze. Bastano 20 minuti e te li trovi sotto casa, quindi... Ma cazzo, sì, è vero. Ma già lo sanno loro, anche il pescio. Loro lo sanno perfettamente che noi siamo sempre i nostri. Non andiamo a portarci. Ma, riprendi Sandro. Lo riprendi? Attivo, perché? E io sto facendo un attimino di bianco, lo prendo subito. Roger, Giuseppe. Sì, avanti. E dove siete? Io sono qua a San Francesco da solo, non hai capito. Sono qua perché ho problemi con l'antenna e non so cosa fare, cosa non fare, capito? C'ho altri problemi a te, dunque non sto pensando a quello, hai capito? E dunque al discorso di quello che si è fatto, però ognuno la pensa con la sua testa e giustamente non costa niente quando si entra un canale e dire la frequenza e il discorso sta modulando, hai capito? Non ci vuole niente, però quando siamo noi, siamo tre ragazzi e tutti quanti conosciamo anche verticale, non c'è bisogno neanche, hai capito? Non voglio aggiungere altro, dai. Ho capito. Claudio, mola la forchetta, vieni qua. Claudio sta pampando. Già è un problema, no? È che non succede nulla, dai. Noi siamo con la coscienza a posto e basta, no? Non si può venire nulla di male. Stiamo facendo il nostro QSO della sera e basta, così. E non ce ne frega nulla delle altre scemenze. Ma con la coscienza a posto non è vero. Comunque. Gianni Capri 2, ci sei? Buonasera Antonio, eccolo qui a Gianni Capri 2. E io, diciamo, non è che la cosa mi dispiace, però non è che me la prendo più di tanto. Si tiro la frequenza, il canale, tutte queste belle cose. Però, niente, lui non me la prendo più di tanto, perché io sono anche il tipo che mi piace anche ascoltare, non solo a modulare. E capito, però non ho visto che questo signore è un signore, no? Adesso sto leggendo anche signora perché non so chi sia, capito, faccia tutti quanti questi giochi così, perché per lui c'è stato il divertimento, però io sto al gioco, altro. Ma quello, al pari di come se ne è accorto che ha dato l'allarme, se ne accorge chiunque capita per caso su quella frequenza, perché si rende conto che non è tutta la 27, a parte dal linguaggio, ma poi si rende conto che non tutta la 27 si può essere spostata su un canale UHF o UHF che sia. Quindi secondo me, ti ripeto, quando c'è penuria di argomenti è quello, bisogna trovare un argomento nuovo, buono, divertente, perché sennò si ricade in preoccupazioni assurde, ridicole, che perché prima era un paio di mesi fa avevo sentito quello che bisognava avere il libricino del codice dove segnare tutti i QSO che si erano fatti. E decidiamoci, signori, ma Perché no, come si chiama? Registro della stazione, non avevo fatto niente. Perché non mi interessa ammazzare nulla, non voglio che un domani capiti a persone per muovere le cose dell'attività radio, anzi gente che non ha mai preso il microfono in mano. Quindi mamma come mi piacerebbe, visto che sono molto appassionato, sono un collezionista, a me gli apparati mi piacciono, e anche, però non voglio anche tutte queste cose, mi danno anche un po' fastidio, però ci sono sopra, sono in qualche ripresi. Sì, ma una cosa è il piacere di volerlo fare, una cosa è il dovere di volerlo fare, c'è una rimessa differenza, perché chi non è stato il piacere può fare quello che vuole. Sicuramente è piacevole anche avere un libricino di annotazioni di queste, però una cosa è invece doverlo fare, cosa non è. Ripeto, ogni tanto qualcuno si sveglia non sapendo cosa fare e dire, dice la cosa e tutti, ci sono tutta una serie di persone che lo seguono. Dopo un paio di giorni meno male che la cosa scema e evitiamo di farlo. Sono qua, Sandro. A lo Barracuda, riprendi, dici la tua, dai. E niente, io ho parlato, giustamente, bisogna ascoltare, poi ce ne sono tutte stupidaggini, bisogna lasciare perdere, giustamente. È giusto quello che stanno dicendo, è la fine, vabbè. Si prende come viene, quando c'è la coscienza pulita, già dormi tranquillo. Comunque, secondo me, converrebbe cambiare discorso e parlare qualcosa di più divertente per passare meglio la serata, ecco. E se no, lo sai cosa facciamo? Non li attendiamo più, ci mettiamo a fare i castelli con le scarpe, capito? Tutto lì avanti, mi sembra che è entrato qualche sacro. Ok, dai, lasciamo perdere. Cioè non diamo retta alle barzellette, perché qualche volta qualcuno spara barzellette, perché io vorrei vedere un picco pallino qualsiasi dove si mette lì ad ascoltare e a trasportare la mia voce. Io adesso considero me a trasportare la mia voce, la mia modulazione. ma ora io ho parlato di determinata frequenza, mi devi dare delle prove. Dalle prove ci saranno dei chi ha fatto e compiuto, diciamo, questo gesto. Quindi, signori miei, ti lasciamo operare, dai, che non sarà stupido uno quanto voglio, ma non penso che possa arrivare a tanto. Quindi lasciamo operare le barzellette. L'importante è sempre questo che dico io, che sono 27, bisogna sempre moderarsi, farsi discorsi, chiacchierate come sempre abbiamo fatto, tranquillamente, e tutto là. Poi per il resto finiamola con le barzellette. Ma è quello che ho detto io. Ignorare queste cose basta. Ogni tanto magari no, non guasta a capire la frequenza dove mettiamo, no, quello può anche non guastare ogni tanto così. Però parliamo come mangiamo. Questa è la frequenza che si vive così ogni giorno. Capito, va bene, dai. Io capisco stasera lo stato d'umore di Antonello che si è subito imbizzarrito e vabbè, può dare fastidio perché può dare fastidio. Comunque Antonello, Silandia, fregate, l'importante è quando uno è in piena regola, non ha niente da temere. Io sono pienamente d'accordo, io giustamente ho detto, ho espresso solamente il mio modo di pensare, tutto lì, per carità, non prendete bene o male, e il mio modo anche di esprimere, tutto lì, ma niente di preoccupante, ho detto solamente quello che penso, tutto lì. È giusto, siamo in un paese democratico, no? Quindi ognuno è liberissimo di pensarla e di reagire come meglio crede. Se poi uno reagisce malamente, allora saranno cavoli suoi, però insomma, grazie a Dio mi sembra che sulla 27 fino adesso nessuno abbia mai sgarrato, nessuno abbia mai detto niente di male, quindi... Io sono pienamente d'accordo, ma sarà il meglio che siamo talmente in maggioranza che a volte abbiamo tanto ci vuole un pochettino di giramenti di scatole, no, per tagliare un pochettino la monotonia, ma ogni porca misura, ogni volta ne esce una, vabbè, sono litigi, e va bene, ci sono diversi modi di pensare, giustamente molte cose non si condividono, e va bene anche quello, ma ogni tanto c'è sempre qualcuno per rompere le scatole, sarei talmente curioso di sapere chi sia. Proprio per dare due calci del sedere, guarda, fammi farebbe anche piacere. Va bene, comunque, Corde, o mi sbaglio? Mi pare che c'era anche, se non sbaglio, Gianni Doppiurum. Gianni! C'era Giuseppe Viria Bassi. Appa, rientro a QTH. Perché abbiamo fatto già la ora e dunque adesso ce ne rientriamo a casa e ci guardiamo un po' di televisione e poi ce ne andiamo a nanna. Grazie della compagnia, ci sentiamo tutte quante al presto. Quelli per me, ciao ciao, buonanotte a tutti quanti al canale 10 del punto 27.0.75, cambio. Bombolo, ti sei dimenticato la postazione? Ah, e a me se prende. Ah no, mi sono sbagliato, Giuseppe. Avanti, Sandro. Hai sbagliato di dire le tue coordinate. Io sono... stazione Leoncino di Sassari, QTH, abbiamo un defurro, numero di cambio. Ok, perfetto. C'è il terreno primo piano? Mauro, no, ma... E a tu mettessi anche il cognome, mettessi. Ah, non sei nante! Guarda che lo stiamo facendo assesso in battuta, eh! Vai, Bombolo! Ci vuole la gaffa e già io mi fa la pioggia e mi porto un bel ricatto qua ti fai? Già meno personalmente strumenti meno che sono più fracco c'è la sera ti ho carrato va bene, dai signore, io vi lascio, buon proseguo di questa tutta la ruota, dai, pensiamo più che altro ad altre cose, che ci sono altre cose più importanti di queste scemenze. Saluto circolari a tutti quanti, da parte mia, correti, riprendi Oceania. È successo oggi. Ciao Sanz, alle prossime. Grazie. Andiamo a entrare. Oceania, ma cosa chiede? Sono qui. Scusi Lucio, ma senti di altre conversazioni? Va. Ho detto, Oceania, mi ascolti? Io stavo parlando con l'Occidentia e poi c'è Sandro di Contatore che stava facendo due mesi, c'è Giuseppe che era in Panamugre che non lo ascolti, e Claudio che è in due mesi, c'è Antonio Bombo che intanto non lo ascolterai perché arriva, non lo ascolto tanto io. Poi è che mi sono dimenticato, scusate, se si da rocca, non mi devo dire da rocca. Riprendi a dove fai che ascolti Pinocchietto il Moro da Bugio. Ehi, avanti, buonasera Pinocchietto, se mi copri la barracuda. Solamente un pochino più basso, oggi sono liscio. Barracuda, a me senti, ok. Ehi, amore, la voglia che ti sento. Mi stavo chiamando a Pinocchietto, no che sono le viti. Sto facendo mia moglie. Sto dicendo a Pinocchietto il Moro che è entrato. Pinocchietto il Moro. Ma ti ascolta te, bombolo. Riesci a tirarlo fuori? No, ci ha tirato fuori, ci ha seguito la mano qua, ma teniamoci io. Ecco, già è vero. Avanti, Pinocchietto, sei copia da bombolo. Che ti saluta. Addirittura. Spero che mi non c'è. Capito, ma come si chiama, come so, possono essere tante altre discussioni. Né più né meno. Hai capito che sei? Perché a chi sei? Già. Avanti. Ti ascolto, anche stavo chiamando a Falchetto. Se c'era. Riesci a vedere Antonio Grosso, ci sei? Eccolo. E c'è Pinocchietto da Pugliuolo, so se lo ascolti, che invece il Pinocchietto il Moro Pugliacca a Pugliuolo, sempre su frequenza 27.075 del canale 10 della banda GP. Avanti a te, Antonio Grove, capi due si mette il cambio, vai. No, non credo che riesca a tirarmi fuori, perché anch'io non riesco a sentirlo, sento che attacca di modulazione, ma non riesco a capire cosa sta dicendo. Avanti Pinocchietto, se riesci a ascoltarmi. Grazie. Riprendi Gianni. Ok, non so se ho sentito una sacca, se è rientrato Claudio, ma sono un po' in bianco. Avanti, Claudio, ci sei? Sì, io sono passato qua, buonasera a tutti, era solo 20 che però facevo una prova continua, ma mi ascolto, sono Franco Morto e ho bisogno un po' di riposare, oggi ho avuto una giornata un po' abbastanza movimentata e domani purtroppo devo anche fare presto. Un saluto circolare a tutti, Antonio Grode, mi pare ci fosse Antonio, a te Gianni, per un certo modo se mi sta ascoltando, Antonello, Luca mi pare aver sentito qualcosa sui 20. Insomma, un saluto circolare a tutti, se mi dimentico qualcuno perdonatemi, ma vi ascolto ma non riprendo perché sono tanto morto. A te Antonio Grode, riprendi, fai girare. Ciao Claudio, buon QRT e buon 144, ci ascoltiamo alle prossime se coincide, dai. Avanti, chi è rimasto? Giuseppe, non credo ci sia, riprendi Gianni e fai girare. Sì, grazie, allora saluto Claudio, buon QRT, già molto dopo domani, e se per caso ci sentiremo dopo la giornata, diciamo, sarà come quella di oggi, a quanto peggio, quindi campagna di qua, lo esibito alla radio. E niente, rimetto il tutto la domanda barracuda e poi sarà a girare anche per gli altri. Avanti al momento. Sì, buonanotte Claudio, se devi andare a riposare, sentiamo le prossime. Scusate un attimino, faccio un attimino di bianco e ritorno subito. Ma da volte che là, se ci siamo, e beh, una cosaretta minoretta, e beh, mi pompa, là. Sì, va molto bene, ha chiuso, Tino vi saluta a tutti perché è tardi e poi c'era il bambino che stava riposando. Comunque va benissimo la radio, è contentissimo, già si fa sentire domani, beh, ha fatto un altro capolavoro, un'altra soddisfazione ce l'abbiamo tolta. Dai, un saluto circolare a tutti, a domani, buonanotte, Claudio Sparghiero, Curetti. Ah, ciao Cla, buonanotte, dai. Quando sei più rilassato, ci siamo, là. Ciao, ciao, buonanotte. E ciao. Giulio, a me senti? Ciao, villa. Ah, capa. Ma mi è capitato quando apre, ci siete? La mia modulazione. Grazie all'alimentatore, devi. Io? Sicuramente. Mi sento strano, tanto. Possibile, a meno che non sia il telefonino che ho qua vicino, che sta creando un po' di problemi. Ah, sicuramente è quello, Scappa. Come senti stasera? Negativo, non ho copiato il passaggio, viene avanti nuovo. Sto male, mi senti stasera, come senti? No, sicuramente più basso delle altre volte, ci sono dei momenti, dei giorni dove arrivi decisamente molto più forte. Che gamba, sono col paracchino normale sono. Cioè, ma perché non lo usi sempre l'altro, non molto meglio? Perché la sera non lo uso perché sennò voglio c'è un televisore che magari non mi trovo. Hai capito? Allora siccome ci deve guardare la televisione lo uso per quello, parla appena mi. Voglio, un attimino di quel Rix per me e fai girare, dai. Allora, buonasera. Hai visto però pure a muro sta di buon questo paracchino. Avanti, Luca, di Romonte. E a Franco. Come è Franco? Te lo battimento zero. Franco, che è Franco? Pensione, Franco California, senti qua. Produca. Tu. Domani mattina telefono all'autoparco per farti dare il numero. L'autoparco faceva il numero. Fa di Roger, basta che poi avevo il baracchino, mi stai modulando e lo metti a fianco al cazzonetto. Per carità che modulazione è fea, mettiti la tua modulazione che vai a andare più che bene. Ah, tu stai dicendo che il Typhoon con l'OM300 fa cagare? Sei il primo che me lo dice, allora gli altri me lo dicono per farmi contento. Ma ragazzi, adesso stai andando bene, ma prima hai fatto qualcosa, hai messo troppo ecco e non si comprendeva nulla, hai tutto strappato, tutto... Ah, guarda, ho fatto così, guarda, È normale che fa schifo dove con la manetta. Questo è l'M300, forse è troppo anche amplificato, io un po' così meglio fa. Così va benissimo, stai facendo una bomba. Ma la stampa che fine ha fatto? Pensavo che era per lavoro, ma stavo già ripensando all'autoparco. Il cuore mi si è allegrato, mi credi? Allegro, adesso devo spensierare. Ma che te ne hai fatto fare? A chi? Cappa. E qua il capo ha parcheggiato. E qua, stasera parla anch'io perché diciamo mi viene meglio, dai, col microfono palmare. Che casino. Chi c'è perché era tu in paese? Che stai modulando? Ma sono copiato, vedete in paese. Antonio Popolo lo sto dicendo. Ma cosa di Caprue stavo modulando? Gianni ci sei. Attenzione Franco, canale 10, cambio. E sti Bassero che fa la bruva, da voi. Un po' fa la prova con me, attacca, non c'è manuta. Sta fondo scala. Ma è una bomba adesso, è davvero una bomba. Che cos'è il Typhoon? Non ho capito, tu? Se c'è una bomba, stai uscendo davvero bene. Che cos'è come è copiato? Sto giù compreso una massa, ma mai stai uscendo così alto? Una bomba avanti adesso, cosa hai compiato? No, sempre come 300, è qua a zero, è abbassato un po' il mic da baracchino, niente di che. Perché come stai uscendo adesso lui? Adesso va bene, ma tu non ce l'hai più il K. Vaca a zero. Piazza, come? Te prendo. Sera Franco, California. Buttalo via. Buttalo via. Casino, bubu, che casino, Antonio Grodo, è un casino questa vita. Te prendo. E gira, il mondo gira, con lo spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore, con la gente come te, il mondo. E mentre mi canta di cagata, ma la bocca a bicchia, dice, è possibile che sia Luca? Ma tu, ma non ce l'hai più il K, no? Papà. Mi hai detto che l'avevi venduto, così ho sentito, Uno dei 10 che ho. Ah, uno dei, cazzo, dei 10, si è cazzo la conversione. Io gli stavo cercando, perché mi sono fissato col Colt, la 48, ma anche a fare questo qua, questo che sto usando io. E ne ho visto uno 280 euro, però non prendo la scatola chiusa, magari è un bidone, non si dà più 280 euro, 250 era, no, 280. Sono lì per lì indeciso se fare questo Typhoon oppure no, non lo so. Se c'era una persona a Cagliari che lo stava vendendo a 80 euro, doppio, come si dice? Colt, il 48, se dico quanto lo stavo vendendo non l'ho preso, me ne mangio le mani. No, quanto? 80. Ma tu sei malato, cosa potevi dire a me? A che cento ti avevi dato? Ma bisogna vedere com'era, Sento, un baracchino così ne guarda almeno 200-250, proprio a comprare e rivenderlo. E che già avevo appena comprato un'altra cosa e non avevo liquidità. Cazzo, non ce l'ho più. Io glielo posso chiedere, mi ha mandato un messaggio, però era per lineari, questo qua stava venendo lineari. Aspetta invece, aspetta che forse c'è un altro baracchino, forse ti interessa. A me mi serve un baracchino, un lecco, fate elicottero, uno così, perché sono lì per fare questo Typhoon, vediamo un po'. No, sono indeciso, se me lo fa bene lo faccio, altrimenti cazzo lo cura a capo. Fate elicottero. Fra quelli tipo binario di 10, se ci vuoi ah basta, mi stai spaccando tutto con la gatta. Sera Franco, California. Antonio, buonasera. Coincido mai dalla morte. La sua voce è confondibile. Fra, fatti vedere un istituto di cosa, cazzo, poi sei parito, la gaglia duia. Sti cavoli ci prendiamo un caffè domani. Sono sempre puri, Luca, capito? Sono sempre giù a Porto Cervo. Cazzo, domani! Boh, domenica! Luca. E domenica sono libero. E allora si può fare, Ocla. Va, Ofra. Teoria e roba. Dimmi a tu. La sta vendendo un Avan 2001. Perfetto, in scatola modificato con 400 canali. Ma mi serve come fatto elicottero. Quanto vuole? Per fatto elicottero basta che fai così. Elicottero. Quanto vuole che era tu? Elicottero. E quanto vuole? Aspetta, che mi ha scritto un attimino, mi si è spento il telefonino. E vuole. Non me l'ha scritto, se vuoi glielo chiedo. Se no ciao, vabbè, ma quando guarda tu lo sta vendendo a 3 sacchi, se gliene dai 2,50 te lo dà. Dopodiché sta vendendo anche un linearino, un 603, ti ricordo a tre valvole a 90 euro. Ma tu vada a fare a Claudio un 600, 4 valvole, cazzo, vabbè, ce l'ho a perdere, nuovo, non è vecchio, ma so bene. Comunque, fammi sapere dell'8001, io l'ho venduto a Luigi, 150 euro, ma nuovo, fiammato, modificato, 400 canali. Senti, questo quanto ne vuole? L'ha appena detto, 2,750. Sono venduto io 750 euro nuovo nuovo a Luigi Vulcano, era di Franco Delta 1 nuovo, chi è Luigi se ti dico balle, nuovo nuovo, o 200, adesso mi costa 750 o 200, ma fiammante, apparenta Luigi, ce l'ha bruto. Infatti già è rimasto lì, non mi sono scappicollato, e poi, vabbè, forse perché è modificato, ma... 400 canali credo che li acquisti senza niente, boh. Appunto, ma se io l'ho venduto, l'ho venduto io, la Tama è Franco, da là me l'ho venduto io. Ho venduto un 48 digitale a Giuseppe Tornado, ma nuovo di pacca, 100 euro. Tu vuol dirmi, senta, fiamma, è rimasto così. Nuovo, con 400 canali, modificato. Roger, riprendi Franco. Emisori CC, alto, dammi un controllo di segnale, fa la cortesia. Cosa te ne fai? Mi stai facendo lo smitter, questo controllo ti do, è incollato a destra. Se te ne è bullone, mi vuoi? Claudio, buonasera. Che te ne vuoi, sì? Dici che devi andare dall'estero a travagliare. Oh, sono andato fuori 2 settimane, claro, ma poi sono rientrato. Sto lavorando giù a Porto Cervo. Ah, così è. Bene. Sono contento che sei vivo. Sto ascoltando, vai, continuate. Ma aspetta, dammi un controllo di segnale, Claudio, fa la cortesia. Come più 20 radio 5. Andar bene, merda. Contra il cambio è tuo, dai, 9.30 sei qua, radio 5, buona, ottima. Ok, Luca, riprendi. Ecco. E arrivi a tu. Dove ce ne sono a Porto Cervo? Veramente adesso non c'è niente, è morto. Carciofi ci sono, Grode. E fagioli. E domani che era la soffa e la magnata una luce. E se fa culo. Scusatemi, non ti viene il QRX per me, sto finendo di fare una cosa. un attimino. Hola. Guarda, io scendo, tutto qua da fischi. Questo è là, magari sa due. Conosci dopo, perché c'ho il stazionale che mi attacco un pochettino fa fischi. Scusatemi un attimino, sono in quel rizzo. Ma sento la radio di Arturio che è un bel bassa. È bassa. Perché se la alzo crea un po' di problemi, guarda un po'. Vai passaggio a vedere. Guarda un po'. Hola. Secondo me sinceramente quella radio non mi piace. Ma sei solo, infatti devo cambiare il mic, devo prendere questo DM1000 e la fa zero. DM1000 è quello Anto. Mappa di Roger, però ho abbassato un po' la LC l'ho chiusa, capito? Adesso la devo riaprire e cambiare il microfono. Ma ne hai su di problema 300? Cosa per il? Problema 300, ma tu non c'hai soldi per comprarlo, no? A parte non si trova neanche. Tu vai su internet, un cacchio della ciappa, e dice la ciappa te lo guardi in barga, sa che sali. Ma guarda, sa che io non ho soldi, hai soldi, dai, nel caso mi metto a conservarli per questa Natale me lo prendo. No, dico, soldi nel senso, a spenderli su 1.300.000, se ne hai, ti faccio fare un affare. Ma che costa? Non so se ti conviene. Ma sei 20 euro. 20 euro è che la batteria ti dà. Allora, che se faccia il fattizzino. Scusatemi un attimino, riprendo subito. No, se non mi sa che è meno di 80 non lo dà. Non è introvabile, poi è nuovo. Vabbè, ma sono qua anch'io, là. Ancora 10 minuti. Mi serve un attimino. Aspetta, vediamo un po'. Vabbè. Stavo dicendo, Franco, se ti fai trovare ti devo dire roba, così ci organizziamo per farci due lanci se vuoi andare, se ne gana, siamo sempre impegnato. E capo, guarda, domenica dovrei essere libero perché domani sono fuori, che sono fuori per lavoro, al limite da ci troviamo domenica, dai. Ma se con lo stesso numero hai? Capo. No, ti facciamo una telefonata. Ci rispondi e beh, se no mi giubate. Ci diamo un caffè, ci troviamo. Te lo dire roba, fra. Aia. È cosa che non sono sicuro ancora, però. Se ne vuole la candela. Eia, vabbè. Ti vuoi un mugni, merda. E non ne ho bisogno dei mugni, c'è un mugnino a te, si Luca. Non ho di quei problemi, capito? Non si compreso, va bene, bravo. Cazzo di hai. Ma. Lascia la zia. Ma tanto male ne senti, Franco. E tu sicuramente tu sei ancora coricato nel letto, quindi sento la voce un po' bassa. Sto usando una radio normale, sto usando. Meglio. Non può essere altra gabbisciuria, no? E anche io sto usando una radio normale. Franco. Mi? Questo geniale com'è lì da te? La Diagonova Radio 5. Già va bene, dai, se non 4 watt normali, a voglia. Ma guarda, io ti ascolto bene qua, so che anche Luca. Sì, lo sento un po', vabbè, una microfonia normale, diciamo, non è amplificato. Riesco a, come dire, lo ascolto bene. Ascolta Antonio, guarda questo passaggio che ti faccio. A quest'altro passaggio, vabbè. Sai che c'è un mandassino, c'è un bel forte qua, fra. Sì. Da adesso 1, 2, 3, 4, 5, prova 1, 2, 3, 1, 2, 3, ora 1, 2, 3, 4. Fondo scala, sì. Il K. Va bene, dai. Vai Luca. Qua la faccia di cazzo, tu gatto ci ha. Mamma mia. Successo. Cosa? Che successo? E poi fui, ba. Scusa, ma fai la vita di lumi apri luci, zarra, vabbè i denti, vabbè. E da così, ma è ebro e fui, ma è. Sì. Mamma, pure io ce l'ho qua, se tu sono vicino a me, seduta vicino a me, ogni tanto mi guarda, ancora mi fa le fusa, mi ha tanto, vuole stare sempre vicino a me, sempre vicino a me, questa gatta. No, lì c'è in terra. In terra è tra di mare, tra voi due non basta, ci sono basta coi. Ogni tanto capita, ci sono io, brinca, tra voi due, ma così mi ha detto mamma, non lo so, non la voglio. È un cane, sì, è pulito, però no, il cane deve rimanere in terra, a parte che i cani devono stare in campagna, non in casa. Vabbè, la prossima volta non ne prenderò mai più. Ma non perché non mi piace, anzi, ma in casa non si monetini. In campagna vanno bene, sono liberi, escono, fanno, senza problemi. In casa non fa. Ma vabbè, la gatta è più autonoma. Già, è meno rompi palle. Non va più giù, insomma. Lo so, Franco, ringrazio, sì. Grazie a lei, poi mi dice, io non tengo nessuno in occhio, no? Vabbè, io sono andata con un gaffa, si è andata a Cremule, perché non lo sento più. Ma sai che a prendere le tv e trovare a Cremule, è allucinante. Cosa? Se c'è le tv questo apparecchio, è allucinante. Vabbè, tu pare che l'hai detto, quanto ha speso? Ho dimenticato me nel gioco, perché oggi, non siamo neanche visti a lavoro perché è rimasto a casa. Dopo io chiedo, se te lo faccio sapere a vedere quanto ha speso. E poi se domani ne ha voglia fare qualche passaggio, così più o meno confrontiamo, e mi dice che microfono ha messo anche. Aspetta che adesso mi preparo, dai, mi si muove dentro la cuccia, dentro la culla. Ma gamba, io sono un poco zarro e mi si muove pure dentro la culla. Che ridete? Sì, non posso dire. Tu hai visto? Ci sentiamo, ci vediamo in questi giorni. Ciao a tutti quelli che per me vanno a Teatro di Circolare. Ciao, ciao. Ciao, bravo, buonanotte. Chiudo anch'io, a tu. Ci sentiamo domani. Ciao, Claudio, anche a te. Buonanotte, a domani, ciao. Ripeto, a tu. Ciao anche a Grotte, buonanotte. Ma, ciao Luca, ciao anche a te Franco. Fatti ti indica che butta. E a tutti quanti. A Claudio c'è ancora in accorcio e a tutti quanti del canale 10. Buonanotte a tutti! Ciao, buonanotte! Ciao, Grotte! Ciao, buonanotte a tutti, ciao. Ciao.